просто вакуум. Сил вот от заку, добрый писаку, самим браком. Street credibility, street credibility. Questo è quanto. Tutti in piedi con MS, saga del rap, fermaci fra, attualità, con il black flag, nessuno ci fotte. Odio tutti quanti gli MC, si credono VIP come Brad Pitt, attori dei beat, attori di street come mignotte. Cerchi di fumo, cerchi nel grano, cerchi macete, trovi un giaguaro, graffio rimario, illumino rapper, dalla piazza al better. Non c'è nessuno, provo al di là dell'umanità, mi stacco da qua, faccio il doppio gioco, double game come Dexter. Vengo dentro, Crampy Beach, schiaccia 7 on the beach, sfido stronzi, bella zii, schiaccio tette, Big T. Ascolta il mio problema, non è comprensibile, pure la più troia se sta con me dopo insensibile. Cerco mille visi veri per la strada, notte e giorno, 24 ore 8 barre, resto un tornacondo. Macete franco, fianco a fianco, bastan solo 2 minuti, asfaltiamo la tua crew di caga sotto, Shaggy e Scooby. Ingestibili come un lupo cieco slovacco, zio vuota il sacco, dopo riempi il sacco, siamo in branco. Street credibility, street credibility. Questo è quanto. Guarda dietro le mie spalle, ci trovi macete. Voi parlate di strada, che cazzo ne sapete? Le nostre scarpe hanno più chilometri della tua auto. La mia gente esce col martello per lo scazzo. Storie di lame e sacchi di marijuana, mille denaro ci rende dei figli di puttana. Giro con la crew, evito la polizia, in cerca di una svolta giusta per volare via. Guarda in strada come cazzo alzo il rango, per la mia famiglia sono pronto ad andare al gabbio. Colpi di macete nella selva oscura, questi fanno i grossi, io non ho paura. Noi non abbiamo paura fra Frank UBR, Macete Express, Gamma Q, Map Studio, Genova, Genova Nord, eh? E non ci fotti fra. Ingestibili come un lupo cieco slovacco, zio vuota il sacco, dopo riempi il sacco, siamo in branco. Street credibility, street credibility. Questo è quanto. Questo è quanto.